Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Passaggio in India, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Adriana Motti. Mrs. Moore era proprio morta. Affidata all'abisso, ancora lungo il percorso di sud, perché i piroscafi da Bombay non possono puntare verso l'Europa finché non abbiano doppiato l'Arabia. Si era inoltrata nei tropici come non era mai riuscita a fare sulla terraferma, quando il sole la sfiorò per l'ultima volta e il suo corpo fu sepolto in un'altra India ancora, l'oceano indiano. Lasciò dietro di sé un doloroso disagio, perché una morte scredita una nave. Chi era questa Mrs. Moore? Raggiunta Aden, Lady Mellanby telegrafò, scrisse, fece tutto quello che la cortesia richiedeva, ma la moglie di un governatore non mette in bilancio un'esperienza simile, e lei ripeteva: «Avevo visto quella povera donna per qualche ora appena, quando si è ammalata. Proprio un fatto inutilmente increscioso. Rovina il ritorno in patria». Un fantasma seguì la nave lungo il Mar Rosso, ma non entrò nel Mediterraneo. In un punto, dalle parti di Suez, avviene sempre un cambiamento sociale. Le convenzioni dell'Asia si affievoliscono e cominciano a farsi sentire quelle dell'Europa. E nel corso di questo passaggio, Mrs. Moore venne eliminata. A Porto Said cominciò il grigio nord burrascoso. C'era un freddo così rigido e tonico da far pensare ai passeggeri che dovesse aver invaso anche la terra appena lasciata, ma lì il caldo aumentava costantemente, secondo la sua legge consueta. A Chandrapur la morte prese forme più sottili e durevoli. Sorse la leggenda che un inglese aveva ucciso la madre che tentava di salvare la vita di un indiano, e in questo c'era quel tanto di vero che bastava a dar fastidio alle autorità. A volte era stata uccisa una vacca, ovvero un coccodrillo zannuto come un verro era emerso dal Gange. È più difficile combattere assurdità di questo genere che una concreta bugia. Si celano nei cumuli di rifiuti e si muovono quando nessuno guarda. Nello stesso periodo si ebbe notizia di due diverse tombe che contenevano i resti di Mrs. Moore, una vicino alla conceria, l'altra nei pressi della stazione merci. Mr. McBride le visitò entrambe e vide i segni di un principio di culto, ciotole di terracotta e cose del genere. Da esperto funzionario qual era, non fece niente che lo aggravasse e dopo circa una settimana quello sfogo finì. «Tutto questo mi sa di propaganda», diceva, dimenticando che 100 anni prima, quando gli europei si stabilivano ancora in campagna e davano esca all'immaginazione rurale, ogni tanto, dopo la loro morte, diventavano spiriti del luogo. Non divinità intere, forse, ma parti di un dio che aggiungevano un epiteto o un gesto a quanto già esisteva. Ume gyane timirandasya gyananjana shalakaya Chakshur unmilitam yena tasmai shri guruve namah. Ronnie si ripeteva che la madre aveva lasciato l'India spontaneamente, ma la sua coscienza non era tranquilla. Si era comportato male con lei, e adesso o doveva pentirsene, cosa che implicava una rivoluzione mentale, o insistere nella propria crudeltà nei suoi confronti. Scelse quest'ultima strada. Com'era stata noiosa con quella sua difesa di Aziz! Che cattivo influsso su Adela! E adesso dava ancora guai con quelle ridicole tombe, mescolandosi con gli indigeni. Lei questo non poteva evitarlo, naturalmente, ma nel corso della sua vita aveva già tentato analoghe avventure esasperanti. E lui gliene faceva carico. Il giovanotto aveva molti grattacapi: il caldo, la tensione locale, la visita imminente del governatore, i problemi di Adela, e a intrecciarli tutti insieme in una grottesca ghirlanda c'erano queste indianizzazioni di Mrs. Moore. Che cosa succede quando una madre muore? Presumibilmente va in cielo. A ogni modo, sparisce. La religione di Ronnie era di tipo sterilizzato da public school, che non si deteriora mai, nemmeno ai tropici. Dovunque entrasse, moschea, grotta o tempio, egli conservava l'atteggiamento spirituale del liceo e condannava come debilitante ogni tentativo di capire quei luoghi. Tornando in se stesso, eliminò dalla mente quel problema. A tempo debito lui e i fratellastri le avrebbero messo una lapide nella chiesa del Northamptonshire, che essa aveva praticato, con sopra incise le date di nascita e di morte e la circostanza che era stata sepolta in mare. Questo sarebbe bastato. E Adela... doveva partire anche lei. Da un pezzo Ronnie sperava che fosse lei stessa a proporre quella soluzione. Sposarla non poteva proprio. Sarebbe stata la fine della sua carriera. Povera Adela, che pena. Se ne stava all'istituto governativo, grazie alla cortesia di Fielding. Sconveniente e umiliante, ma al centro amministrativo non l'avrebbe accolta nessuno. Egli rimandò tutti i colloqui personali alla conclusione della causa contro di lei. Aziz l'aveva citata per danni davanti alla magistratura di grado inferiore. Allora lui le avrebbe chiesto di lasciarlo libero. Lei aveva ucciso il suo amore, che del resto non era stato mai molto forte. Non sarebbero mai arrivati a fidanzarsi, non fosse stato per quell'incidente nell'automobile del Nawab Bahadur. Adela apparteneva a quell'immatura e accademica fase della sua vita che lui aveva ormai superato. Grasmer, discorsi seri e passeggiate, cose del genere. La visita del governatore della provincia costituì la tappa successiva del disfacimento dei Marabar. Sir Gilbert, pur non essendo un uomo illuminato, aveva idee illuminate. Esente, grazie a una lunga carriera nella segreteria di Stato, da ogni contatto personale coi popoli dell'India, poteva parlarne urbanamente e deplorare i pregiudizi razziali. Si rallegrò dell'esito del processo e si compiacque con Fielding, che aveva avuto fin dal principio una visione ampia, giudiziosa, la sola che la carità potesse suggerire. Detto in confidenza, continuò. Fielding deplorava le confidenze, ma Sir Gilbert volle fargliene a tutti i costi. La cosa era stata mal condotta da certuni dei nostri amici di lassù, i quali non si rendevano conto che le lancette dell'orologio si muovono in avanti, non indietro, eccetera, eccetera, eccetera. Di una cosa sola si rendeva garante. Fielding sarebbe stato cordialmente invitato a rientrare nel circolo, e lui lo pregava, anzi gli ordinava, di acconsentire. Se ne tornò perfettamente soddisfatto alle sue altitudini himalayane. La somma che Miss Questid avrebbe dovuto pagare, ciò che in realtà era successo nelle grotte, questi erano particolari locali e non lo riguardavano. Fielding si trovò sempre più impegolato negli affari di Miss Questid. L'istituto era ancora chiuso e lui mangiava e dormiva da Hamidullah, quindi non c'era motivo per impedire che Adela rimanesse là se lo desiderava. Lui nei suoi panni sarebbe partito, piuttosto che subire le tiepide e distratte cortesie di Ronnie, ma lei aspettava che la clessidra del proprio soggiorno si esaurisse. Una casa dove vivere, un giardino dove passeggiare nel breve momento di frescura, Adela non chiedeva altro e lui era in grado di offrirglieli. La tragedia le aveva mostrato i suoi limiti e adesso Fielding valutava che persona leale e onesta ella fosse. La sua umiltà era commovente. Non si lagnava mai di essere respinta da tutti e due i mondi. La considerava la giusta punizione per la sua stoltezza. accennò che forse sarebbe stato opportuno fare delle scuse personali ad Aziz, disse tristemente: «Ma certo, avrei dovuto pensarci da sola. I miei istinti non mi aiutano mai. Perché non sono corsa da lui dopo il processo? Ma certo, gli scriverò una lettera di scuse. Ma per piacere, vorreste dettarmela?» Tutti e due misero insieme una lettera, sincera e piena di frasi commoventi, ma niente affatto commovente come lettera. «Devo scriverne un'altra?» domandò lei. «Sono pronta a tutto, pur di riparare al male che ho fatto. Io posso far bene questa o quella cosa, ma poi a metterle insieme diventano sbagliate. Ecco il punto debole del mio carattere. Non me ne ero mai resa conto prima d'ora. Credevo che mi sarebbe bastato essere giusta e fare domande per risolvere ogni difficoltà.» Lui rispose: «La nostra lettera è sbagliata per una ragione semplicissima che faremmo meglio ad affrontare. Voi non avete nessun vero affetto per Aziz né per gli indiani in generale.» Lei assentì. «La prima volta che vi ho vista, voi volevate vedere l'India, non gli indiani.» E io pensai: «Beh, questo non ci porterà molto lontano. Gli indiani capiscono se gli si vuole bene o no. In questo non si lasciano ingannare. La giustizia non basta a soddisfarli. Ed è per questo che l'impero britannico è poggiato sulla sabbia.» Poi disse: «Del resto, voglio forse bene a qualcuno io?» Probabilmente lei voleva bene a Hislop ed egli cambiò discorso, perché questo lato della vita di Adela non lo riguardava. Gli amici indiani di Fielding, d'altro canto, si erano già un po' montata la testa. La vittoria che avrebbe reso ipocriti gli inglesi li rendeva aggressivi. Volevano preparare un attacco e cercavano di riuscirci scoprendo nuovi soprusi e torti, molti dei quali non esistevano affatto. Soffrivano della solita delusione che accompagna la guerra. I scopi della battaglia e i frutti della conquista non coincidono mai. I secondi hanno la loro importanza e solo il santo li rifiuta. Ma quell'accenno di immortalità svanisce non appena li si tiene in mano. Sebbene Sir Gilbert fosse stato gentile e quasi ossequioso, l'edificio che egli rappresentava non aveva minimamente vacillato. La burocrazia britannica restava invadente e sgradevole come il sole, e che cosa si dovesse fare per attaccarla di nuovo non era molto chiaro a nessuno, nemmeno a Mahmud Ali. Si tentarono le calunnie esplicite e l'illegalità spicciola, e dietro tutto questo perdurava un genuino ma vago desiderio di preparazione intellettuale. «Mr. Fielding, dobbiamo istruirci presto tutti quanti.» Aziz era cordiale e imperioso. Voleva che Fielding cedesse all'Oriente, come diceva lui, e vivesse in uno stato di affettuosa dipendenza. «Potete contare su di me, Fielding.» Nessun dubbio in proposito. E Fielding non aveva radici tra i suoi connazionali, ma gli era stato proprio impossibile diventare una specie di Mohammed Latif. Quando discutevano di questo, si insinuava tra loro un che di razziale, senza amarezza, ma inevitabile come il colore della loro pelle, color caffè contro grigio roseo. E Aziz concludeva: «Non riuscite a capire che vi sono grato del vostro aiuto e voglio ricambiare?» E l'altro ribatteva: «Se volete ricambiare, non chiedete i danni a Miss Quested.» La insensibilità verso Adela lo offendeva. Trattarla generosamente sarebbe stato giusto sotto ogni punto di vista, e un giorno gli venne l'idea di appellarsi alla memoria di Mrs. Moore. Aziz ne aveva una stima così alta e fantasiosa. La morte di lei era stata un vero dolore per il suo cuore appassionato. Aveva pianto come un bambino e aveva ordinato di piangere anche ai suoi 3 figli. La rispettava e l'amava. Non si poteva dubitarne. Il primo tentativo di Fielding fallì. La risposta fu: «Vedo la vostra manovra. Io voglio vendicarmi di loro. Perché dovrei lasciarmi offendere e tollerare che si legga quello che tengo in tasca e che si porti la fotografia di mia moglie al commissariato di polizia? E poi quel denaro mi serve per educare i miei figlioletti, come ho spiegato a lei». Ma cominciava a tentennare e Fielding non si fece scrupolo di esercitare un po' di necromanzia. Ogni volta che si veniva a parlare del risarcimento, lui tirava fuori il nome della morta. Come altri propagandisti le inventavano una tomba, così egli edificava nel cuore di Aziz un'immagine discutibile di lei, senza dire nulla che l'amico credesse falso, ma suscitando qualcosa che probabilmente era molto lontano dal vero. Aziz cedette all'improvviso. Sentì che il desiderio di Mrs. Moore era di vedergli risparmiare la donna che stava per maritarsi con suo figlio, che quello era l'unico onore che potesse renderle, e con un magnifico e appassionato slancio rinunciò a tutto il risarcimento, chiedendo solo le spese. Fu un bel gesto da parte sua, e, come aveva previsto, non gli conquistò nessuna stima presso gli inglesi. Loro credevano ancora che fosse colpevole, lo credettero sino alla fine delle loro carriere, e gli anglo-indiani in pensione a Tunbridge Wells o a Cheltenham mormorano ancora l'uno con l'altro: «E quel caso dei Marabar che andò in fumo perché quella povera ragazza non ce la fece a testimoniare? Quello fu un altro brutto caso». E così, quando la faccenda fu definitivamente chiusa, Ronnie, che stava per essere trasferito in un'altra zona della provincia, avvicinò Fielding col suo solito riserbo e gli disse: «Voglio ringraziarvi dell'aiuto che avete dato a Miss Quested. Naturalmente non abuserà oltre della vostra ospitalità. Posso dirvi che ha deciso di tornare in Inghilterra. Ho appena provveduto al suo imbarco. Ho capito che avrebbe piacere di vedervi». «Bene, andrò subito da lei». Arrivato all'istituto, Fielding la trovò un po' sconvolta. Seppe che il fidanzamento era stato rotto da Ronnie. «Più che saggio da parte sua», disse lei con tono commovente. «Avrei dovuto parlargliene io stessa, ma ho continuato a tirare avanti domandandomi che cosa sarebbe successo. Avrei tranquillamente seguitato a rovinare la sua vita per inerzia. Non si ha niente da fare. Non si appartiene a nessun luogo e, senza rendersene conto, si diventa una seccatura per tutti». Poi, per rassicurarlo, soggiunse: «Parlo solo dell'India. Non sono sperduta in Inghilterra. Là sono al posto mio. No, non credo che in Inghilterra combinerò guai. Visto che sono costretta a tornarci, mi dedicherò a un lavoro. Mi resta abbastanza denaro per cominciare e ho una quantità di amici come me. Starò benissimo». Poi, sospirando: «Ma quanti fastidi ho dato a tutti qui! Non potrò mai riprendermi. Tutto quel mio arrovellarmi se dovevamo sposarci o no, e finisce che Ronnie e io ci lasciamo e non ne siamo nemmeno addolorati. Non avremmo mai dovuto pensare al matrimonio. Non ve ne siete stupito quando è stato annunciato il nostro fidanzamento?» «No, non molto. Alla mia età ci si stupisce di rado», disse Fielding sorridendo. «Il matrimonio è troppo assurdo comunque. Comincia e continua per ragioni talmente futili. Da un lato lo puntella l'interesse sociale, dall'altro quello teologico, ma nessuno dei due è il matrimonio, no? Alcuni miei amici non riescono a ricordarsi perché si sono sposati e le loro mogli nemmeno. Sospetto che il più delle volte succede per puro caso, anche se dopo si inventano varie nobili ragioni. No, sul matrimonio io sono scettico». «Oh, io no. Questa falsa partenza è stata tutta colpa mia. A Ronnie non portavo niente di quello che bisognava portare. Ecco perché in realtà lui mi ha respinta. Entrando in quella grotta, io pensavo... Sono innamorata di lui? Questo non ve l'avevo ancora detto, Mr. Fielding. Non mi sentivo giustificata. Tenerezza, rispetto, rapporti personali. Cercavo di fargli prendere il posto del... Io non ho più bisogno di amore, disse lui, suggerendole la parola. E nemmeno io, disse Miss Quested. Le mie esperienze mi hanno guarita, ma voglio che altri ne abbiano bisogno. Ma, riprese Fielding, per tornare al nostro primo colloquio, perché immagino che questo sia l'ultimo, quando siete entrata in quella grotta, chi vi ha seguita? O non vi ha seguita nessuno? Potete dirlo adesso? Non mi piace che questo rimanga in sospeso. Diciamo la guida? Rispose lei con indifferenza. Non si saprà mai. È come se al buio passassi il dito su quella parete levigata. Non posso andare oltre. Mi trovo contro qualche cosa, e così anche voi. Mrs. Moore, lei sapeva. Come poteva sapere quello che noi ignoriamo? Telepatia, forse. Arzilla, povera parola, cadde al suolo. Telepatia. Che razza di spiegazione. Meglio rimangiarsela. E lei lo fece. Era all'estremo delle sue risorse spirituali, e lui anche. C'erano mondi oltre i quali non sarebbero mai potuti arrivare, oppure tutto il dominio del possibile entrava nella loro consapevolezza? Non lo sapevano. Capivano soltanto che il loro modo di vedere era più o meno simile, e in quello trovavano una soddisfazione. Forse la vita è un mistero, non un pasticcio. Non lo sapevano. Forse le centinaia di indiani che si agitano e altercano in modo così esasperante sono uno solo, e l'universo che rispecchiano è uno solo. Non avevano i mezzi per giudicare. Scrivetemi quando sarete in Inghilterra. Lo farò, spesso. Siete stato talmente buono. Ora che sto per andarmene, lo capisco. Vorrei poter fare qualcosa per ricambiare, ma vedo che avete tutto quello che vi occorre. Credo di sì, rispose lui dopo una pausa. Non mi sono mai sentito così felice e fiducioso qua giù. Vado raramente d'accordo con gli indiani, e loro si fidano di me. È una bella cosa che non abbia dovuto dare le dimissioni. È una bella cosa essere lodato da un governatore. Fino al prossimo terremoto resto come sono. Naturalmente, questa morte mi ha turbata. Anche Aziz le voleva così bene. Ma mi ha fatto ricordare che tutti dobbiamo morire. Tutti questi rapporti personali di cui cerchiamo di vivere sono passeggeri. Una volta credevo che la morte scegliesse le persone. È un'idea che si prende dai romanzi, perché di solito alla fine qualcuno dei personaggi resta a parlare. Ora comincia ad essere reale che la morte non risparmia nessuno. Non fatelo diventare troppo reale, o finirete col morire anche voi. Ecco perché non si deve meditare sulla morte. Siamo schiavi di quello che costruiamo dentro di noi. Anch'io ho provato la stessa tentazione e ho dovuto cambiare rotta. Voglio vivere ancora un poco. Sì, anch'io. Un senso di amicizia, come di nani che si stringessero la mano, era nell'aria. Sia l'uomo che la donna erano nel pieno delle loro capacità, ragionevoli, onesti, perfino acuti. Parlavano la stessa lingua e avevano le stesse idee, e la differenza di età e di sesso non li divideva. Tuttavia erano insoddisfatti. Quando convenivano «voglio vivere ancora un poco» oppure «non credo in Dio», le parole erano seguite da uno strano riflusso, come se l'universo si fosse spostato per colmare un piccolo vuoto, o come se loro avessero visto i propri gesti da un'immensa altezza. Nani che parlavano, si stringevano la mano e si assicuravano a vicenda che le loro intuizioni poggiavano sullo stesso fondamento. Non pensavano di aver torto, perché non appena le persone oneste pensano di aver torto, nasce un senso di instabilità. Una meta infinita dietro le stelle non era per loro, ed essi non la cercavano nemmeno. Ma ora, come già altre volte, nacque in entrambi uno stato di aspettativa. L'ombra dell'ombra di un sogno cadde sui loro interessi così precisi, e oggetti che non avrebbero mai più rivisti parvero messaggi di un altro mondo. «E io sento molto attaccamento per voi, se posso dir così», affermò Mr. Fielding. «Ne sono lieta, perché lo sento anch'io. Vediamoci ancora». «Certamente, in Inghilterra, se mai farò una vacanza in patria». Sandro Lombardi ha letto Passaggio in India di Edward Morgan Forster, realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.